pensare. Ogni azione che io faccio più semplicemente, ogni argomento di cui vorrei parlare, diventa immediatamente un qualche cosa da dimenticare. Perché la mia mente non si ricorda niente di tutto ciò che faccio durante il giorno. Ogni giorno mi contorno di cose da dimenticare. Stavo dicendo.